L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa nuova puntata dell'altro pianeta, che va in onda quando le vacanze ormai per molti volgono al termine, ma non è mai tardi per visitare uno dei 13 centri della rete italiana per il recupero delle tartarughe marine Caretta Caretta. Tra l'altro il 22 agosto sarà il Tarta Day, una giornata dedicata alle tartarughe marine in cui i pescatori, con il supporto degli operatori dei centri di recupero e primo soccorso di cui parleremo proprio in questa puntata, saranno protagonisti della liberazione di animali catturati accidentalmente. E ci saranno i pescatori, ma anche ovviamente i biologi, i veterinari, i volontari dei centri di recupero per rispondere a tutte le curiosità dei visitatori. Il Tarta Day verrà realizzato, come dicevamo, il 22 di agosto in molti centri di recupero nelle isole Pelagie, nell'Egadi, all'Asinara, nel Parco Nazionale del Gargano, ad Agrigento, nel Parco Naturale della Maremma. Insomma, tutte le informazioni e le indicazioni su dove si trovano questi centri li potete trovare all'indirizzo www.tartalife.eu. A proposito di Tarta Life, c'è anche un canale YouTube dedicato a Tarta Life con alcuni servizi giornalistici sui centri e altri video di liberazione di tartarughe o tutorial su come trattare queste tartarughe. Tra l'altro ce n'è anche uno che mostra delle reti per pescatori studiate per evitare di intrappolare le tartarughe ed è molto curioso, forse riusciamo anche solo con l'audio a farvi avere un'idea di quello che viene descritto e presentato ai pescatori. Questo strumento serve a evitare che le tartarughe rimangano impigliate nella rete. Qui abbiamo ricostruito il sacco finale di una rete, in pratica questa è una griglia che viene montata con un'inclinazione di 45 gradi proprio prima della parte finale, cioè del sacco della rete. La tartaruga entra all'interno della rete, viene spinta dal flusso dell'acqua e dal suo movimento contro questa griglia, la spinta la mandano verso l'alto proprio grazie all'inclinazione di 45 gradi e questa tasca le consente di uscire. Ovviamente il pesce invece passa attraverso queste aperture e quindi continua a accumularsi in fondo alla rete in modo che lo strumento non vada a incidere anche sul pescato. Ecco, questo è il video che appunto arriva dal canale YouTube Tarta Life. Dicevamo dei centri di recupero delle tartarughe, sono connessi tutti nel progetto Tarta Life, che è un progetto Life più Natura della Commissione Europea. Ha un finanziamento di oltre 3 milioni di euro e si realizza anche con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della Regione Marche. Il coordinamento di questo progetto Tarta Life è affidato alla CNR ISMAR, che è l'Istituto di Scienze Marine, mentre la gestione dei singoli centri, quelli che potete visitare il 22 di agosto, ha affidatari diversi. Quello di Manfredonia in Puglia è in cura al Legambiente in collaborazione con Mare Blu. E da questo centro ogni anno transitano circa 100 esemplari, anche di più, di Caretta Caretta. Noi l'abbiamo contattato questo centro nel corso dell'estate in occasione di un rilascio delle tartarughe che erano state curate. Un esemplare che è stato battezzato Sandy, che era stato recuperato a 4 miglia al largo di Manfredonia da un moto peschereccio, riportava questo esemplare di tartaruga una forte infestazione da ectoparassiti. La tartaruga è stata ospedalizzata all'interno delle vasche di stabulazione per le cure e la valutazione delle condizioni generali, quindi la postura, la capacità di nuoto, i tempi di immersione, l'alimentazione, e poi appunto è stata liberata nel giorno in cui abbiamo sentito Giovanni Furi, responsabile del centro di recupero delle tartarughe marine di Manfredonia di Legambiente. Il nostro centro è nato nel 2006, è stato inaugurato il 26 luglio 2006 ed è nato grazie a un finanziamento LIFE, il Tartanet, oramai concluso da diversi anni. Da quella data ad oggi abbiamo recuperato, ospedalizzato, monitorato e curato 955 esemplari di tartarughe marine qui nel basso Adriatico. Le attività del centro naturalmente sono rivolte alla tutela e salvaguardia delle tartarughe marine a lungo termine, quindi sono delle strategie di conservazione della specie per il lungo periodo. Attualmente abbiamo in corso un partenariato in progetto LIFE denominato Tarta LIFE, il cui capofila è l'ISMAR di Ancona, e le nostre attività nel corso da circa quasi quattro anni hanno subito anche, diciamo, un'implementazione grazie alla collaborazione con Mare Blu, che ci ha fornito una serie di supporti sia tecnici, anzi soprattutto tecnici, per migliorare la nostra azione nel campo della tutela delle tartarughe marine. Quando lei dice supporti tecnici, a cosa si riferisce? Apparecchiature? Esatto, apparecchiature per le analisi, apparecchiature per il controllo della qualità delle acque, ecco, cose di questo genere che sono fondamentali per il nostro lavoro. Certo. Senta, perché è stato necessario intervenire con dei progetti, addirittura LIFE, per la tutela delle tartarughe? Cosa stava succedendo? Le tartarughe marine sono specie, adesso parliamo nello specifico della caretta, che è la tartaruga più comune nel Mediterraneo, è una tartaruga a rischio di estinzione, inserita nella lista IUCN come specie endangered, cioè a un passo, diciamo, dall'estinzione in natura. Quindi sono necessarie delle azioni di tutela, ma questo accade a livello mondiale, delle azioni di tutela per evitare, per scongiurare il rischio dell'estinzione. Quindi è fondamentale che queste azioni vengano programmate e poi messe in atto. Preciso che per poterle programmare in maniera efficace è necessario studiare questa specie, e per fare questo abbiamo bisogno di definire delle collaborazioni per azioni di ricerca con le università, cosa che noi facciamo fin dall'inizio della nostra attività con i maggiori atenei d'Italia. Sì, questo appunto mi ricordavo, perché l'anno scorso avevamo già parlato, insomma, di voi, di queste collaborazioni. Ma che cos'è che mette a rischio la sopravvivenza della tartaruga marina, in particolare questa caretta? Cioè è la pesca, l'inquinamento o una combinazione di tanti fattori? Mi piace dirlo che ovviamente si tratta quasi sempre di influenza dell'uomo, impatti antropici che possono essere di varia natura, sia legati all'antropizzazione delle spiagge, e questo riguarda specificatamente il problema delle nidificazioni, l'inquinamento dei mari, a questo proposito abbiamo anche svolto una ricerca in collaborazione con l'Università di Siena, che si occupa di ecotossicologia. Altri problemi sono ovviamente l'impatto con i natanti, soprattutto nel periodo di maggiore frequentazione da parte dei diportisti dei mari italiani. La pesca ha un suo impatto rilevante, essendo un'azione che viene compiuta in maniera continuativa nei nostri mari, e quindi può rivelarsi un impatto importante, appunto, dicevo. Proprio con i pescatori noi abbiamo stabilito da anni un'ottima collaborazione, e questo ci permette, lei consideri che a Manfredonia abbiamo circa 200 licenze attive per la pesca, noi collaboriamo con più del 30% in maniera diretta di questi pescatori. Questo ci permette di definire con loro dei discorsi di sostenibilità della loro azione, quindi non solamente la collaborazione, la consegna, l'affidamento a noi delle tartarughe che rimangono, che loro ritrovano nelle loro reti, ma anche dei discorsi di sostenibilità in maniera più ampia e più generale. Quindi, insomma, avete fatto proprio una specie di alleanza, ecco, con i pescatori, in particolare di Manfredonia. Manfredonia, certo, il nostro raggio d'azione principale si focalizza su Manfredonia. Certo, perché siete ovviamente, quella è la vostra area. Ma nel resto d'Italia c'è questa sensibilità da parte dei pescatori? Ormai, insomma, è diffusa oppure ancora no? No, assolutamente si sta diffondendo, in certe aree lo è di più, in certe aree di meno. Naturalmente tutte queste azioni, ad esempio parlando del LIFE o anche l'azione di Mare Blu stesso, sono delle azioni che non si focalizzano su un solo territorio, ma proprio perché è necessario coinvolgere tutte le marinerie con le loro diverse peculiarità, anche per quanto riguarda le tipologie di attrezzi utilizzati, no? E quindi il diverso impatto che possono avere sulle diverse specie non bersaglio, è necessario che ci sia un'azione a largo raggio, ed è proprio quello che noi cerchiamo di fare con i nostri partner in tutta Italia. Dunque, mi ricordo anche che c'era la possibilità per i visitatori di accedere al centro, è così? O era un altro? No, era il vostro? Sì, sì, no, noi siamo aperti al pubblico. Siete aperti al pubblico? Sì, facciamo delle manifestazioni. Recentemente, ad esempio, abbiamo portato a liberare degli esemplari gruppi di persone grazie ad una promozione fatta dalla Regione Puglia Promozione, e quindi ci sono stati numerosissimi bambini che hanno anche partecipato al rilascio in mare di alcuni esemplari di caretta. Questa è un'azione fondamentale per quanto riguarda la sensibilizzazione soprattutto delle fasce più giovani ai problemi che riguardano appunto la sostenibilità e la tutela ambientale. Delle tartarughe che avete rilasciato dopo un periodo di cura, così, vi è mai capitato di doverle riospedalizzare, diciamo? Certo. Allora guardi, è una cosa che capita sempre più di frequente, perché naturalmente aumentando il numero di tartarughe che noi marchiamo, aumentano anche i casi di recupero successivo. Le faccio un esempio: noi abbiamo messo insieme con la riserva marina di Porto Cesareo dei sei satellitari su sei esemplari di tartarughe marine, questo nel 2012. Una di queste l'abbiamo recuperata qualche settimana fa nuovamente qui nella nostra zona. Il satellitare non c'era più, perché quello ovviamente dopo un po' viene via, no? E non abbiamo potuto riconoscerla grazie alla targhetta identificativa che noi mettiamo agli esemplari. È assolutamente frequente i recuperi multipli, diciamo. Alcune tartarughe vengono riprese anche più di una volta, più di due volte. E questo anche ci dà informazioni importantissime per quanto riguarda le loro abitudini, i loro spostamenti, e quindi ci permette di conoscere molto meglio la loro biologia e la loro ecologia. Che poi è la parte che immagino venga sviluppata con le università, no? Poi dopo... Assolutamente sì, è la parte principale del nostro lavoro, perché non è importante la cosa fondamentale è studiare la complessità, la struttura della popolazione, non il singolo esemplare. E certo, anche per poi poter prevenire appunto anche le situazioni. Certo, esattamente. La ringrazio molto. Grazie a lei. Buon lavoro. Salute. Risentirci, grazie. E questo era Giovanni Furi, responsabile del centro di recupero delle tartarughe marine di Manfredonia. Continuiamo a parlare di questo argomento tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini. Stiamo parlando di tartarughe marine in questa puntata, in particolare parliamo del centro di recupero di Manfredonia, che come molti altri in Italia fa parte del progetto Tartalife, un progetto finanziato dalla Commissione Europea tramite il programma Life più Natura. È un centro gestito, questo in particolare di Manfredonia, da Lega Ambiente in collaborazione con Mare Blu. Stefano Raimondi, responsabile dell'ufficio Aree Protette e Biodiversità di Lega Ambiente, ci racconta appunto l'esperienza condotta a Manfredonia. Voi siete stati come Lega Ambiente, i facilitatori, ecco, di questo progetto, no? Mettendo in relazione il centro con Mare Blu in modo che si potesse procedere su questa linea. Avete avuto questo ruolo? Sì, sì, questo progetto nasce dalla collaborazione appunto fra soggetti, e appunto tutto quanto è finalizzato ovviamente alla tutela della biodiversità marina, nello specifico dalle tartarughe marine. Lega Ambiente da sempre è impegnata nei settori anche della salvaguardia della biodiversità in generale, e anche un'attenzione particolare al mare. Mare Blu appunto attraverso le sue strategie di attenzione proprio al mondo anche di una pesca sostenibile, quindi sicuramente i due soggetti si sono trovati su un terreno comune, diciamo così, che è la tutela della biodiversità in generale, della biodiversità marina in generale. Nasce tutto da un vecchio progetto LIFE, esatto, ormai esaurito, che però allora poi dopo si è rinnovato in qualche modo. Allora, il quadro è il seguente: il centro recupero tartarughe marine di Manfredonia, attualmente gestito da Lega Ambiente, è nato da un vecchio progetto LIFE che si chiamava appunto Tartanet. Si è concluso questo progetto, il progetto LIFE hanno una scadenza che può essere di 3, 4, 5 anni, dopo questi primi si concludono, e nel caso specifico del centro di recupero tartarughe marine, questo centro è stato nuovamente coinvolto in un altro progetto che ha riguardato tutti quanti i centri di recupero presenti sulle nostre coste, che si chiama invece Tarta LIFE. Allora, i LIFE in generale sono, possiamo definirlo, il principale strumento attraverso il quale l'Unione Europea finanzia i progetti in campo ambientale, quindi relativi per esempio nel caso dei LIFE natura, come vengono definiti, quindi quei LIFE che si occupano di tutelare specie o habitat di grande interesse, in alcuni casi anche presenti nelle direttive comunitarie, hanno questi progetti, come nel caso del Tartalife, a che fare in questo caso con una specie molto, lo dicevo anche fuori in precedenza, estremamente delicata, a forte rischio, che è appunto la tartaruga marina caretta. I progetti possono essere, i progetti LIFE, portati avanti da un unico soggetto, i cosiddetti progetti monopartner, oppure come nel caso di Tartalife da un partenariato molto più ampio, è promosso da come ente capofila il CNR ISMAR, la sezione marina praticamente del CNR che ha sede ad Ancona, e poi si giova di un partenariato molto ampio in cui è presente ovviamente anche Lega Ambiente come ente gestore appunto del centro di recupero tartarughe marine di Manfredonia. E quanti centri diceva che sono coinvolti, cioè qual è la rete italiana, diciamo? Italiana è formata da una rete molto ampia, diciamo di una, poco più di una decina di centri, ma lo scopo del Terzo Life è, tra le altre cose, anche quello di rafforzare questa rete, per cui alcuni centri verranno creati anche durante lo svolgimento del progetto. Il progetto ha circa un anno e mezzo di vita attualmente, e quindi verranno creati anche nuovi centri che si aggiungono a quelli già precedenti, che verranno invece rafforzati durante questo centro. Ci saranno corsi di aggiornamento ovviamente per gli operatori dei centri, perché ovviamente le conoscenze su questa specie si evolvono in continuazione. Ma scopo del progetto è anche quello di promuovere nel comparto della pesca l'utilizzo di mezzi di pesca a basso impatto. Sono mezzi di pesca alternativi, dei semplici espedienti che consentono, pur mantenendo inalterata la qualità e la quantità del pescato, di incidere in maniera minore sulle catture accidentali che si possono verificare di animali appunto come le tartarughe marine. E parliamo per esempio della diffusione di strumenti quali gli ami circolari, che sostituirebbero i cosiddetti ami a gei tradizionalmente utilizzati in passato, che si è visto hanno un minore impatto sulle catture accidentali di tartarughe, piuttosto che nel caso di pesca a strascico, per esempio, gli strumenti chiamati TED, che vengono messi appunto nella una sorta di griglie inserite all'interno del sacco del pesca a strascico, che deviano appunto le tartarughe, quindi evitano che vengano prese all'interno della rete, senza evitare però in realtà poi invece il normale afflusso del pescato commerciale, che normalmente finisce appunto nel sacco della rete. Questi sono alcuni, diciamo, degli esempi di attività che il Tartalife cerca appunto di diffondere in tutte quante le coste italiane dove appunto il progetto viene sviluppato. Ma c'è modo, per esempio, di evitare magari la pesca in alcune aree particolarmente sensibili? È anche questa una parte di studio? La pesca in Italia è regolamentata ovviamente da normative nazionali e già diciamo ci sono delle aree ovviamente sensibili, parliamo di alcune aree marine protette, in alcune aree diciamo a tutela possiamo definirla integrale, dove normalmente già la pesca appunto non viene praticata perché quelle sono aree appunto di particolare interesse, di particolare pregio, che vengono quindi tutelate da questa normativa. Diciamo che lo scopo del Tartalife è quello di integrarsi completamente invece con la pesca tradizionale, che viene fatta secondo tutte quante le regole e viene rispettata appunto dai pescatori secondo tutte quante le regole vigenti normalmente, semplicemente andando a proporre dei metodi alternativi di pesca che, pur non inficiando la qualità appunto dell'attività di pesca stessa, evitano però di catturare contemporaneamente alcune specie particolarmente sensibili come le tartarughe marine caretta caretta. L'ultima cosa che le chiedo è se nel Tartalife sono coinvolti anche paesi stranieri. Nel Tartalife non sono coinvolti i paesi stranieri a livello di partner, quindi di partnership ufficiale. È chiaro che però nell'attività di networking, quindi di scambio di buone esperienze, di buone pratiche che tutti quanti i progetti LIFE prevedono, quindi un dialogo diciamo così con altri progetti sia europei, in questo caso appunto sono tutti di carattere europeo, che hanno finalità molto simili, sono previsti degli incontri, dei confronti, anche ci sarà anche un convegno finale di progetto dove si metteranno a frutto tutte quante le esperienze maturate anche da altri progetti per capire un pochino l'efficacia di tutti quanti questi sistemi che vengono proposti dal Tartalife ma anche da altri progetti. Grazie molte e a risentirci, buon lavoro quindi. Grazie a voi. Sento grazie che state voi, correndo. Anche a voi. A presto. Allora. Grazie, a presto, arrivederci. Stefano Raimondi era il responsabile dell'ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente. Abbiamo già detto che l'occasione per queste interviste è stato il rilascio della tartaruga Sandy, che era stata curata a Manfredonia. Ecco, proprio per questa occasione nel centro era arrivata anche Barbara Saba, direttore marketing di Mare Blu, che collabora con Legambiente per il funzionamento proprio del centro. Conosciamo quasi tutti Mare Blu, soprattutto per il tonno, ma comunque è un'azienda che lavora nel settore delle conserve ittiche, al di là del tonno e anche al di là dei confini nazionali. In Italia si occupa da anni di progetti legati alla sostenibilità ambientale, alla tutela del patrimonio faunistico, in partnership con Legambiente, come accade appunto a Manfredonia. Allora abbiamo chiesto a Barbara Saba di spiegarci in cosa consiste il supporto di Mare Blu. Sì, diciamo che si tratta ovviamente di un contributo economico, per cui le iniziative precise e specifiche vengono ovviamente dirette dai responsabili del centro, ovviamente con l'obiettivo della sostenibilità, che è in generale un obiettivo per la nostra azienda a 360 gradi, in questo caso con la volontà di sostenere delle iniziative locali, in questo caso specifico sulla regione Puglia, per il recupero delle tartarughe marine. Quindi diciamo che noi non diamo direttive su come andare a utilizzare il contributo, ovviamente affidandoci totalmente all'expertise delle persone che lavorano in questo centro. Dunque, però questo rapporto nato in Italia, diciamo, e poi si è sviluppato, vedo, anche all'estero, oppure è nato prima all'estero sulle tartarughe? È nato prima all'estero, quindi è stato viceversa, questo impegno di Mare Blu già nell'Oceano Indiano, sempre per quel che riguarda le tartarughe, no? Si è poi espanso fino all'Italia. Esatto, diciamo che nasce più a livello globale, nel senso che noi produciamo alle Seychelles e quindi il progetto è nato proprio in collaborazione con il governo delle Seychelles. Lo facciamo quindi nell'Oceano Indiano, l'attività in Italia nasce come una sorta di gemellaggio nei confronti di questa attività che facciamo a livello più di gruppo, ovviamente come MW Brands, che è il gruppo europeo di cui facciamo parte. Leader a livello appunto europeo nella produzione di tonno, conserve ittiche in generale. La volontà era quella di dare un segnale anche a livello locale, soprattutto perché rientra all'interno della collaborazione che noi abbiamo con Legambiente. Quindi non è un progetto a sé stante, la collaborazione è con Legambiente, quindi siamo andati a supportare alcune delle iniziative di Legambiente, quindi come questa attività a Manfredonia, anche il Museo del Mare a Pollica e le attività di spiagge fondali puliti, per esempio, che Legambiente porta avanti con successo in Italia. E rientra comunque nella collaborazione con Legambiente, e nello specifico ovviamente soprattutto anche il fatto che siamo qua, c'è la volontà di andare a toccare con mano sul territorio quelli che sono poi gli avanzamenti che vengono fatti da questi centri nel mondo della tutela ambientale. Con Legambiente, oltre alla collaborazione su progetti specifici, qual è la collaborazione per Mare Blu? Diciamo, c'è anche un aspetto che riguarda la vostra produzione, ad esempio? Questa è più guidata, diciamo, sì, a livello europeo, nel senso che la sostenibilità è un pillar importante per tutto il gruppo. Noi abbiamo voluto portarlo avanti a livello locale con una partnership con Legambiente perché crediamo che sia il partner più credibile a livello italiano e perché crediamo che ci sia necessità di dare una rilevanza anche per il consumatore italiano da questo punto di vista. Quindi toccare con mano vuol dire non parlare di sostenibilità e di tutela ambientale semplicemente tramite il gruppo, ma andare ad avere degli attori concreti sul territorio, ripeto, quando dico toccare con mano, voglio dire veramente andare a fare in modo che quando c'è un contributo che viene dato venga poi, diciamo, utilizzato nel modo migliore e sia, diciamo, un po' portato avanti, insomma, si progredisca nel tempo. Io credo che questo centro di recupero sia un esempio lampante, visto tutta la, non so se ha visto i numeri delle reportistiche, e soprattutto visto anche la crescita nel discorso di attrezzature sempre più sofisticate, eccetera, eccetera. Lei ha trovato questo l'ultima domanda, lei ha trovato questo progetto già avviato, no? Perché era già partito prima che lei assumesse l'incarico che ha adesso, e quindi mi sembra di capire che ne sia soddisfatta, che quindi questo progetto continuerà. Ne sono soddisfatta, il progetto continua e soprattutto quello che vorrei fare io personalmente e dare ancora più ampio respiro al progetto, cioè significa cercare di fare in modo che ci sia anche un coinvolgimento maggiore dell'opinione pubblica che può partire direttamente dal territorio, quindi parliamo di attività con le scuole, attività di conoscenza, insomma, fatta a livelli più ampi, anche per esempio tramite i social network, per andare a sensibilizzare, perché alla fine comunque l'obiettivo finale in confronto del consumatore non è far comprare il tonno, ma è sensibilizzare verso la problematica. La ringrazio molto, allora buon lavoro. ne ha ancora. Era Barbara Saba, direttore marketing di Mare Blu, che ringraziamo per la partecipazione a questa puntata dell'Altro Pianeta. Vi ricordiamo ancora una volta, il 22 agosto sarà il Tarta Day, una giornata dedicata alle tartarughe con l'apertura dei centri di cui abbiamo parlato, che fanno parte del progetto Tarta Life. Ci fermiamo qui da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento alla prossima settimana.